9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 26 di luglio e questa settimana la iniziamo con un tema che mi auguro non considererete pesante o noioso, perché non lo è affatto. Siamo nelle settimane decisive dell'attuazione di una riforma, la riforma del federalismo fiscale, che al governo è stata data per legge delega e proprio nelle settimane alle nostre spalle, tra la fine di giugno e la fine di luglio, due passi importanti sono stati compiuti. Perché? Perché scadevano i tempi per l'attuazione della delega per la parte relativa ad alcuni aspetti che sono quelli decisivi del federalismo fiscale. Come sapete, ma lo ricordo a tutti voi in ascolto, la questione di fondo del federalismo fiscale è quella di definire livelli di competenza tributaria e quindi di autosufficienza in risorse proprie ai diversi livelli delle autonomie, alle regioni, alle comuni e alle province, parametrate ai livelli di spesa in maniera tale da rendere responsabili le autonomie locali di parti molto più rilevanti delle proprie competenze proprie, e in maniera quindi da consentire a noi tutti di poterli giudicare sulla base di quello che spendono davvero, potendo contare sul fatto che non hanno più la scusante attuale di dover contare sui trasferimenti pubblici per una quota troppo rilevante delle spese delle proprie competenze, col principio quindi che portando i livelli di imposizione esattamente vicini a laddove ci sono i livelli di spesa per le competenze, quindi la sanità per le regioni, l'assistenza per i comuni e così via, sia meglio possibile per tutti commisurare la responsabilità dei politici ai loro effettivi risultati. In più, questa riforma ha un obiettivo di fondo, quello, lo ricordo a tutti voi, innanzitutto di rendere omogenei i criteri con cui sono redatti i conti economici e gli stati patrimoniali delle nostre autonomie, perché nel nostro paese, tra le tante singolarità, praticamente non esiste un modello standard di bilancio e quindi è pressoché difficilissimo capire davvero per cose analoghe quanto davvero viene speso, perché i criteri contabili sono stati disomogenei. Vi sembreranno un particolare tecnico che si supera in poco tempo, invece nel tentativo di superare questo problema si è scoperto che è un problema molto molto rilevante, perché questo rende quasi impossibile capire, per esempio, nella sanità, a fronte di costi di beni intermedi, della acquisizione di prodotti o dell'acquisizione di macchinari che servono poi per offrirvi il servizio, quanto davvero si spende per cose analoghe in giro per l'Italia e quindi quanto questo poi concorre a livelli di costo che sono invece in una forbice molto elevata, per cui cose analoghe costano diversissimamente. Anche qui piccolo caveat: è vero che non i costi non sono dovunque uguali in Italia, però quando si assiste a forbici per cui la differenza del costo di acquisizione di una banale strumentazione arriva a essere dell'orbita del 400-500%, ecco che scatta l'allarme, perché vuol dire che c'è un'inefficienza di fondo. Allora, tra fine giugno e fine luglio si sono fatti due passi avanti. Perché? Perché a fine giugno si trattava di definire i criteri metodologici per i costi standard della sanità, che sono, ve lo ricordo, l'80% dei 180 miliardi che spendono le regioni, mentre invece pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha esaminato la versione preliminare del decreto che serve a definire anche qui criteri metodologici per individuare i costi standard per le regioni. Per i comuni stiamo parlando di 39 miliardi su 50 miliardi che spendono i comuni nel nostro paese, e per le province per le loro spese, che sono più o meno 9 miliardi, i costi standard dovranno coprire quasi 8 miliardi su 9. Qual è il punto di fondo? È che in queste condizioni chi si aspettava che venissero scelti immediatamente al momento dell'attuazione della delega i costi sono rimasti un po' delusi. Perché? Perché la commissione tecnica che è incaricata di fare il lavoro preparatorio, la commissione tecnica ha dovuto scontrarsi con i problemi di cui vi dicevo, cioè quelli innanzitutto della reperibilità dei dati omogenei, quelli di avere i dati da tutte le regioni, da tutte le province, da tutti i comuni, e quindi nei decreti di attuazione sono stati individuati delle metodologie. Si è deciso per esempio che laddove mancavano i dati si dà l'incarico al SOSE, che è ben noto agli ascoltatori di questa radio perché è la società che si occupa della raccolta dei dati in base ai quali vengono fatte le oltre 200 studi di settore per i professionisti e gli autonomi che sono loro soggetti e che sono incaricati quindi anche di farne l'evoluzione adeguata alle caratteristiche territoriali dell'economia, perché lo sapete è una delle novità degli studi di settore, anche quella da lungo attesa da noi poveri lavoratori autonomi, visto che la realtà delle curve dei costi e dei ricavi nel paese è molto diversificata e quindi gli standard non possono essere uguali, e quindi sarà la SOSE a chiedere a comune, province e regioni i dati che mancano, nella speranza che in quel caso ci sia una raccolta di dati più sollecita di quanto non sia avvenuta di fronte alle richieste della commissione tecnica. È vero però che nel decreto attuativo si pone un termine preciso con delle sanzioni nel caso in cui le autonomie non diano i dati. Però in questa scelta che è stata fatta di individuare la metodologia per arrivare a questi criteri nei tempi che sono quelli entro il 2013, di arrivare sia per regioni, comuni e province, così dice la delega, alla definizione di costi standard, ad alcuni lascia un po' di perplessità, perché significa sì, d'accordo alle indicazioni metodologiche, però le scelte di fondo non ci sono, i numeri precisi non ci sono, finché non ci sono i numeri precisi non si capisce se il federalismo in che proporzione davvero è ritagliato sulle prestazioni così standard delle regioni più virtuose, la Lombardia, il Veneto per la sanità per esempio, e quanto invece sarà... una volta che ci sono i numeri di tutti, scelta un'indicazione di convergenza, diciamo mediana, invece che solo sui più virtuosi, perché su questo balla, per così dire, una percentuale di rientro delle regioni, dei comuni, delle province meno virtuose, che in taluni casi è molto ampia. Poi in questi giorni sono usciti, fine della mia introduzione, un bel po' di dato su le differenze sui livelli di spesa nei comuni, quanti soldi sono ricevuti dallo Stato e quanti sono spesi. Naturalmente i dati sono molto, tra virgolette, condizionati dal fatto che i comuni delle autonomie speciali del nord, in Trentino, Friuli, Valle d'Aosta soprattutto, e in Sicilia su questo fanno il più della raccolta. Sul Sole 24 Ore di oggi trovate una risistemazione delle graduatorie di spesa per le regioni, anche qui la regione autonoma spende il triplo e quindi consueto tema dell'anomalia dell'autonomia speciale rispetto a quelle ordinarie, e anche un conto di quanto sul Sole di oggi nei comuni del sud è ipotizzabile che si debba incrementare la pressione fiscale locale per raggiungere livelli di autosufficienza economica basati su quei principi ipotetici del federalismo di cui abbiamo parlato, con tasse più alte del 20, 25, anche 30%, perché il nord in media chiede esazioni sulle imposte proprie molto più elevate che al sud, che conta invece poi sulla possibilità di fare più deficit, perché sul costo storico si ripianava di più con il centro. Ecco, questi sono un po' di problemi delicati di cui ci occupiamo oggi, perché abbiamo con noi ospite innanzitutto il presidente della Commissione Tecnica per il Federalismo Fiscale che segna diritto costituzionale all'Università di Padova, Luca Antonini, buongiorno, con cui fare un po' il punto su tutte queste cose. Buongiorno Antonini. Buongiorno Giannino, e poi ascoltatori. Abbiamo con noi Renato Botti, presidente del Confindustria Lombardia Sanità e Servizi, perché in Lombardia, nel frattempo che si procede all'accumulare tutti questi dati che sono essenziali per arrivare poi a delle scelte precise, in Lombardia si è partiti aggiungendo a livello istituzionale anche un livello di confronto privato, cioè si è fatto un coordinamento unico per la sanità privata lombarda e da subito si è dato avvio a un progetto pilota cioè quello di confrontare il pubblico e il privato sui costi dei servizi nella regione che pure è la più avanzata per sanità in Italia, per vedere di mettere insieme proprio i dati su tutti gli input intermedi per arrivare a capire quali sono le migliori pratiche tra pubblico e privato e migliorare ulteriormente il servizio pubblico. E quindi ne parleremo con Renato Botti, che è presidente di Confindustria Lombardia Sanità e Servizi. Buongiorno Botti. Buongiorno a lei, buongiorno a ai nostri ascoltatori. Allora, Antonini, ci fa capire un secondo sul tema del costo standard per la sanità, se davvero si può pensare che sia il prezzo, il costo dei beni intermedi quello che verrà poi a individuare la prestazione dei più virtuosi, 1, 2, 3, 4 regioni, o se invece la scelta sarà un'altra, cioè una volta raccolti tutti i dati possibili si sarà un po' costretti a fare un ragionamento su il costo per amministrato e magari correggere questa cifra, che è un costo storico un po' diversificato, aggiornato, ma a correggerlo per età della popolazione, a correggerlo un po' per diversi tassi di spesa geografici. Ma ecco, nel primo caso ci saranno davvero i dati per farla questa scelta, perché altrimenti, tanto vale dirlo, si va al secondo e forse nel secondo peserà un po' meno e quindi il Sud sarà un po' più soddisfatto la bassa qualità dei servizi offerti. Perché quello che non si capisce fino a questo momento è se quando si dice costo standard si dice davvero la prima cosa oppure si dice la seconda cosa anche se non la si vuole ammettere, ecco. Sì, Oscar, faccio una premessa, perché nella ricostruzione che lei ha fatto ha distinto prima il fabbisogno standard, no? Ha parlato di fabbisogni standard di province e comuni. Lì ci tengo a dire che la scelta di SOSE, cioè la società degli studi di settore, che ha lavorato in questi anni in studi di settore per 3 milioni di contribuenti, quindi 208 studi di settore, non è che nasce tanto perché non c'erano i dati, quanto perché nel passato si è utilizzata una formula matematica, e con quello si è tentato di calcolare il fabbisogno standard, cioè il tentativo di liberarsi della spesa storica, è un tentativo ventennale in Italia, però che è sempre andato incontro a fallimenti, perché si calcola una formula, la si cala dall'alto e quando il comune se la trova addosso crea una reazione politica contro che porta alla sistematica disapplicazione, per cui noi abbiamo una storia che è fatta di 20 anni di fallimenti, proprio perché appunto si cercava di utilizzare una formula. Lo stesso si è cercato di fare sulla sanità, la formula Giarda, e ha portato allo stesso risultato, perché dura un anno e mezzo, perché nel 2005 praticamente le regioni si ribellano e decidono di non applicare più la formula Giarda, che portava all'allontanamento progressivo della spesa storica. Quindi la scelta di SOSE è una scelta molto mirata, perché nei comuni noi abbiamo 6 tipi di funzioni fondamentali e per questo bisogna fare un'analisi sul campo mirata, non vale una formula astratta. Noi abbiamo provato a calcolare una formula astratta, la formula astratta la fai in una settimana e in 15 giorni alle simulazioni e poi arrivi a dei risultati immediati. Il problema è che non descrive la realtà, perché se un comune tiene aperta l'anagrafe anche al sabato, permettendo così ai cittadini di ritirare i certificati durante l'orario di lavoro, questo non è uno spreco, questo è un servizio di qualità. Se invece il comune tiene aperta l'anagrafe solo fino al venerdì e impiega il doppio del personale, quello è uno spreco. Allora, se io faccio la formula non riesco a distinguere questi fattori, che sono fattori estremamente importanti per capire il fabbisogno standard. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, cioè la formula calata dall'alto è astratta, SOSE fa delle verifiche sul campo, invia dei questionari, ha un database che ha 15.000 variabili, quindi permette di tenere conto di tutta una serie di fattori che con una formula astratta avremmo avuto immediatamente un numero, ma molto probabilmente saremmo incorsi nell'ennesimo fallimento del passato, era un altro fallimento che ci andava ad aggiungere alla storia dei fallimenti. Allora, il metodo degli studi di settore quindi da questo punto di vista è molto importante, anche perché teniamo conto che la situazione è molto differenziata in Italia. Tu puoi avere magari nel sud un comune che spende poco per asili nido, ma perché lì c'è poca occupazione femminile, non perché è virtuoso. È un comune del nord che spende di più, ma perché lì c'è molta occupazione femminile. Quindi il fabbisogno standard deve essere una metodologia che consente di colpire veramente gli sprechi, non di fare tutto un erbo un fascio creando situazioni inaccettabili. Quindi questo, diciamo, è il metodo SOSE. Vengo adesso alla sanità. Allora, la sanità è un quadro dove da un certo punto di vista siamo più avanti, perché già il patto della salute prevede una serie di indicatori, l'ultimo patto di salute è molto avanzato e prevede tutta una serie di indicatori sui costi medi che possono essere utilizzati. Cioè, tu vai sull'assistenza distrettuale e stabilisci la spesa pro capite per l'assistenza sanitaria di base, oppure la spesa farmaceutica pro capite, la spesa pro capite per l'assistenza specialistica, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista, diciamo, dei numeri siamo abbastanza avanzati. Rispetto alla domanda che faceva lei, adesso in settimana prossima, noi mercoledì abbiamo una riunione della COPAP dove verrà approvato, porteremo in approvazione un documento che è stato elaborato sui costi standard e riprende molti degli elementi del patto della salute, perché effettivamente dal punto di vista, da quel punto di vista lì siamo abbastanza avanti. Il problema è un altro però sulla sanità, il problema sulla sanità è che noi oggi abbiamo 8 regioni impegnate in piani di rientro: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia e Calabria, e ne abbiamo 4 commissariate. Come? E abbiamo 4 commissariate poi. 4 commissariate per un po' la Calabria, quindi sono 5. Allora, questo è il problema. Qui viene tutto quello che diceva lei. Questo è un settore dove noi facciamo fatica ad avere dei dati precisi. L'ultima relazione della Corte dei Conti sui disavanzi sanitari ha mostrato un quadro estremamente allarmante. A un certo punto c'è un passaggio dove dice: per quello che concerne la consulenza contabile, essa non ha potuto sviluppare la piena potenzialità dal momento che le gravissime deficienze delle contabilità aziendali e le scelte riduttive in termini di revisione adottate dalle stesse regioni non hanno consentito un efficace controllo di legalità, regolarità sulle partite oggetto di conciliazione. Allora, qui abbiamo una situazione che dal punto di vista delle contabilità è molto grave. Io sento sempre più spesso ripetere: le regole ci sono ma non si applicano. Questo è il punto veramente grave. La Corte dei Conti ha detto che noi abbiamo 4,5 miliardi nel 2009 di disavanzo strutturale sulla sanità. E poi abbiamo la partita dei debiti pregressi, che tante volte le regioni affrontano con cartolarizzazioni, in cui invece qualche campanello d'allarme e qui bisogna registrarlo. E oltretutto poi abbiamo anche il fenomeno dei governatori che, appena eletti, magari di un colore politico di quelli delle gestioni precedenti, che hanno sì accumulato più deficit e quindi maggiore responsabilità, che a quel punto rinegoziano sulla base del fatto: non è giusto accollare a noi la responsabilità del pregresso. E anche qui poi si apre dibattito, perché se c'è un governo di colore politico analogo tende a dire: beh, questo è un ragionamento fondato, ma naturalmente questo significa che poi sulla rapidità e sull'efficacia della convergenza verso dinamiche di spesa incrementale più orientate alla qualità e insieme al contenimento dei saldi, tutto questo lo rende più complicato. E quindi, se questo è il quadro sulla sanità, che cosa è possibile immaginare? Sulla sanità, secondo me, guardi, il problema è questo appunto: non esiste che un governatore che entra in carica ci mette 3 mesi e forse non bastano neanche per sapere qual è l'effettivo buco, diciamo, che ha la sua regione. Perché a questo punto io dico: ma l'elettore in base a che ha votato? Cioè, se il federalismo deve avvicinare governanti e governati, noi abbiamo situazioni in cui il presidente della regione, con la struttura che ha, ci mette 3 mesi a capire qual è il reale buco, ma allora dove sta il federalismo? Se questo è il problema che bisogna risolvere. Faccio solo un esempio: pensi che in Campania, a un certo punto, era nel 2007, c'era il presidente della regione, allora Bassolino, che dichiarava 1,2 miliardi di debito pregresso. Viene fatta una commissione dal Consiglio regionale, emerge che il debito è di 7,9 miliardi. Capisce? Questa è la situazione. Allora, questa è una situazione che va risolta con strumenti molto decisi, secondo me, dal punto di vista delle sanzioni, perché non è accettabile un sistema di illegalità diffusa dove le regole ci sono ma non vengono applicate. Per cui qui ci vogliono le sanzioni molto forti e ci vogliono strumenti come quello che noi stiamo prefigurando, per esempio l'inventario delle consistenze, una specie di inventario di fine mandato. Cioè, il presidente della regione deve portare in consiglio regionale 6 mesi prima dell'elezione, in modo che sia giudicato su quello, un diciamo inventario di tutto quello che c'è dentro la sanità, dal debito pregresso alle leggi che ha fatto, ai regolamenti adottati, eccetera, certificato dagli organi interni della regione o dagli organi statali, in modo che il Consiglio regionale approvi questo e questo sia una condizione di ricandidabilità. Cioè, se tu non lo fai, non sei ricandidabile. Questa, secondo me, è una misura. L'altra è il fallimento politico. Cioè, se uno fa un disavanzo eccessivo sulla sanità deve avere la massima sanzione da parte dell'ordinamento, che è l'ineleggibilità. Perché noi dico, abbiamo un sistema sulla sanità dove noi sì possiamo andare a determinare appunto, dicevo, una specie di costo medio efficiente, e qui rispetto alla domanda che faceva si possono prendere o delle regioni oppure delle pratiche migliori tra varie regioni, quindi differenziare ancora il quadro andando a prendere, diciamo, un panorama ancora più grande, però le pratiche migliori, quindi senza fermarsi a un'unica regione, ma differenziando e selezionando. Ma in un quadro così ancora pieno di pratiche difformi, dati che mancano, Calabria che addirittura affida ad advisor esterni il compito di capire che cosa c'è nei conti della sanità della regione, quali elementi inducono a pensare che in pochi mesi si scelgono criteri quando ancora c'è una situazione così complessa? Ma lì guardi, ci vogliono, dico, secondo me, delle regole molto ferree, perché quando la regola è ferrea, diciamo, la sanzione è scritta sulla legge con un'applicazione automatica, questo può funzionare, però dico, va rivisto un po' il sistema, cioè se uno legge queste relazioni della Corte dei Conti, questa come quella che è stata fatta a giugno, e emergono delle cose che sono veramente anche dei limiti dei piani di rientro, eccetera, dove dicono, ma qui le politiche, sì, si è fatto qualche miglioramento, ma siamo ancora estremamente indietro. Qui è proprio il sistema di governance, innanzitutto, che deve diventare molto, molto più rigoroso e molto più con sanzioni che si applichino immediatamente, cioè non possiamo avere situazioni dove magari la Corte dei Conti scrive al collegio sindacale dicendo, ma sono 5 anni che non ci mandi nessun dato, e il collegio sindacale risponde sì, ma perché l'azienda sanitaria che è 5 anni che non mi mandi bilanci. Cioè queste cose non sono accettabili in una situazione in cui siamo, per cui bisogna ristrutturare il sistema di governance, e qui secondo me è possibile, perché gli strumenti anche giuridici esistono per imporre un forte rigore, istituendo tutta una serie di meccanismi dove, se le regole non vengono rispettate, non è che c'è la sanzione patacca, ma ci deve essere una sanzione estremamente rigida. Io credo che questo si possa fare in un tempo relativamente breve, cioè una razionalizzazione del sistema, no? In cui appunto si eliminano tutta una serie di conflitti di interesse che rendono difficile la gestione, perché per esempio il DRG per il pubblico oggi è ancora un indicatore statistico, non è un prezzo, vale come prezzo per il privato, ma per il pubblico è un indicatore statistico. Esattamente. Allora, tra pubblico e privato riprendiamo dopo la pubblicità per capire come in Lombardia ci si mette insieme per capire anche i dati, perché proprio la diversità del che cosa pesa il DRG per pubblico e privato, appena citata da Luca Antonini, è una perfetta indicazione di un tema su cui pubblico e privato nel sistema della sanità, in cui oltretutto il privato ha il maggior ruolo nel sistema pubblico, cioè quello lombardo, diventa un punto molto delicato se non lo si risolve. Eccoci tornati in studio, capire un po' meglio i problemi tecnici di acquisizione dei dati, di confrontabilità, di omogeneità, di meccanismi nuovi di responsabilità coatta della politica a fronte di una maggior autonomia impositiva, ma però anche di criteri raffrontabili di qualità nell'offerta dei servizi. E il professor Antonini ci ha spiegato un po' la forbice di problemi ancora ampli di fronte a noi. Abbiamo concluso su un aspetto, quello che riguardava i privati e il pubblico nella sanità, e allora c'è questa esperienza, che è un'esperienza secondo me molto interessante. Certo, voi potreste dirmi, nella regione che però ha il modello della sanità che funziona meglio, la Lombardia, sì, però è quella che appunto propone anche proprio tra pubblico e privato nella sanità un esempio per ovviare poi a quel tipo di mancanza di omogeneità dei dati e evoluzione continua nel tempo dei dati raffrontabili, che significano anche per noi cittadini poter giudicare poi i cittadini e i politici prima delle elezioni e dopo le elezioni sulla base di dati certi. E allora con Renato Botti tentiamo di capire qual è stata la decisione che ha dato vita a questo coordinamento unico per sanità privata lombarda e a questa esperienza pilota di scambio di costi e di dati sui costi tra pubblico e privato. Botti ci spiega? Ma sì, buongiorno. Dunque, noi siamo convinti che solo dove ci sia un pubblico forte ci possa essere un privato forte. Quindi nessun timore, voglio dire, alla trasparenza, al confronto e alla crescita. Credo che questa sia la vera correlazione tra sistemi sanitari efficienti ed efficaci e quelli no. Cioè, giustamente parlava Antonini di governance, il problema poi è come la realizziamo questa governance. In questo senso, a livello lombardo è nata sicuramente un'esperienza pilota, grazie alla spinta che ha dato il mondo confindustriale, che si sta rendendo conto finalmente che la sanità è motore di sviluppo e non solo un problema di costi, e quindi abbiamo raggruppato intorno a un unico tavolo tutti gli erogatori della sanità privata lombarda, proprio per essere un interlocutore istituzionale forte, per garantire alla nostra regione un tavolo istituzionale importante e fare anche tutte quelle azioni di benchmark e confronto tra il pubblico e il privato che crediamo facciano bene al sistema. Per capirci, e chi non è lombardo, i privati sul totale della sanità pubblica lombarda rappresentano più di 1 su 3 dei posti letto e più del 40% delle prestazioni ambulatoriali. Prego. Assolutamente sì. Quindi noi chiediamo indubbiamente e abbiamo chiesto di aprire un tavolo di confronto, perché come dicevate prima, in realtà anche nella Lombardia, dove evidentemente siamo da 15 anni, parliamo di principi economico-patrimoniali da applicare alla misurazione dei fenomeni economici della sanità, ci sono evidentemente, risulta è difficile confrontare a volte i risultati di un grande ospedale pubblico, il Niguarda, e un grande ospedale privato, cito il San Raffaele dove lavoro, ma e quindi proprio perché dietro ci sono anche modelli organizzativi diversi e modalità evidentemente di gestire i processi aziendali diversi. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione di fare dei confronti, dei benchmark tra strutture, anche qui non bisogna confrontare mele pere, ma evidentemente il piccolo ospedale può essere confrontato con la piccola casa di cura, il grande ospedale che partecipa all'emergenza urgenza può essere confrontato sia pubblico che privato. In questo vorremmo arrivare effettivamente a definire al nostro interno, almeno a livello di Regione Lombardia, quali sono le pratiche più efficienti e in modo tale da poter rappresentare uno stimolo al miglioramento. Botti, in alcune regioni tra le 8 ricordate da Antonini, che sono quelle attualmente sottoposte a programmi di rientro obbligato dei deficit sanitari, e poi ci sono le 4 commissariate che diventano 5 tra poco, spesso sono esplose quasi sempre le polemiche su quali componenti tra quella pubblica e quella privata dovessero accollarsi il più del rientro, e ci sono modelli molto diversi, dipendono anche dal colore politico dell'amministrazione in carica. Ma per capirci, dal suo punto di vista è immaginabile di estendere un progetto pilota come quello della Lombardia tra le componenti private del sistema pubblico dell'offerta sanitaria, ma coordinate a livello nazionale, per fare un pochino più gioco di squadra e impedire che altrimenti poi la politica, come è avvenuto e continua ad avvenire in alcune regioni, di fronte al fatto che ha speso molto eccetera eccetera, ai cittadini e agli elettori indica naturalmente la parte privata dell'offerta come quella a cui sono stati fatti i maggiori favori magari dall'amministrazione di colore politico diverso precedente, perché altrimenti ho l'impressione che se non c'è un coordinamento anche dei privati rispetto alle scelte sanitarie nazionali, e ripeto, coordinamento nella trasparenza, nello scambio di dati, nell'omogeneità di questi dati, e la politica tende un pochino sempre a dire ma questi sono è colpa dei favori fatti ai privati il fatto che poi la sanità costa troppo. Sono assolutamente d'accordo, naturalmente su questo anche il privato ha le sue responsabilità. Noi abbiamo fatto anche uno studio con Assolombarda dove dimostriamo sostanzialmente, quindi con la Bocconi, che non c'è correlazione tra la spesa e la presenza del privato in una regione o la presenza del disavanzo, e personalmente sono convinto che in un momento di difficoltà un paese virtuoso debba proprio attrarre capitali e investimenti privati per aiutare un servizio pubblico importante e che sta così a cuore al cittadino. Sono altrettanto convinto che al cittadino in realtà del fatto che un ospedale sia di proprietà giuridica pubblica o privata interessa poco o nulla, gli interessa se quell'ospedale gli dà evidentemente una qualità di risposta, e questo in Lombardia spesso accade. Quindi assolutamente d'accordo, naturalmente, anche perché, come dicevamo prima, essendo solo il privato sostanzialmente pagato a tariffa, così come è la farmaceutica che ha un prezzo definito, guarda caso le manovre colpiscono molto più facilmente questi comparti, che sono i più deboli e sono gli unici oggi misurabili rapidamente dal punto di vista pubblico. Molto più difficile chiudere un ospedale pubblico e fare una razionalizzazione degli organici, evidentemente partita da un punto di vista politico molto molto più complessa. Antonini, siccome le regioni sottoposte a questo programma di rientro sono appunto una parte considerevole del paese, nella scelta o nell'indicazione poi dei criteri di convergenza su costi e fabbisogni, in qualche misura rispetto ai meccanismi di perequazione bisognerà tenere anche conto delle diverse qualità e rapidità di questi programmi di rientro oppure no? Oppure è un problema su cui lavorate che riguarda solo il passato a prescindere da quello che avviene in questi anni per rientrare chi ha fatto troppo deficit e quindi si guarda al passato per evitare di penalizzare quella parte d'Italia che ha subito le scelte di politici più irresponsabili? Il problema è un problema reale, è intervenuto recentemente Fiumano, che è un docente di diritto fallimentare, mettendo in evidenza, dice che le situazioni di alcune aziende sanitarie locali del sud sono in una situazione disastrosa. Lui dice che bisognerebbe addirittura dichiarare il fallimento, perché per liberarti del pregresso, fare stralci di gestione, eccetera, perché dietro è una situazione che è spaventosa e, dicevo, anche difficilmente accertabile. Però secondo me i problemi vanno tenuti distinti, cioè bisogna monitorare con grande cura quello che c'è alle spalle e trovare degli strumenti di soluzione, di verifica e di soluzione. Invece la determinazione del costo standard secondo me deve prescindere dal debito pregresso e deve essere una determinazione di un costo medio efficiente che viene portata avanti. Però evidentemente i due problemi sono connessi, diciamo, cioè non si può fare finta di niente. C'è questo problema reale, ricordiamoci che il governo Prodi nella finanziaria per il 2008 stanzia 9 milioni di euro di prestito trentennale per coprire i debiti della sanità che erano saltati fuori in quel momento e che erano una cifra spaventosa. Io ho fatto prima l'esempio solo della Campania. Per cui dico, questo è un sistema che va razionalizzato, come anche va razionalizzato dal punto di vista finanziario. Oggi metà dell'IVA va per finanziare la sanità, il cittadino pensa di pagare allo Stato, in realtà sta pagando alla regione, perché la metà dell'IVA, il 47%, ormai eravamo partiti nel decreto 56 del 2000 con scritto nel decreto il 25% e oggi in 10 anni siamo arrivati al 47%, per cui oggi metà dell'IVA non va più allo Stato ma va alla Regione. Questo non ha nessuna evidenza, nessuna tracciabilità, perché io penso di pagare l'IVA come imposta nazionale allo Stato, invece metà dell'IVA di blocco viene presa e va a finanziare la sanità come copertura di quello che viene deciso all'interno del patto della salute, che è un mercanteggiamento, lo chiamo così fra virgolette, ma estenuante, che dura giorno e notte, prima con lo Stato, poi le regioni fra di loro, secondo criteri che, insomma, diciamo, abbiamo una situazione che ci troviamo di fronte che va molto razionalizzata e sono stati indubbiamente fatti dei passi in avanti nell'ultimo periodo, però c'è ancora tanto da fare. Anche allora, perché, Oscar, sì. Do un esempio solo, ma nella piana di Gioia Tauro noi abbiamo ospedali come Palmi che ha 21 posti letto e un personale sanitario di 184 persone, in totale 209 persone, oppure il famoso Taurianova con 29 posti letto e un personale di 174 persone. Allora, e manco a dirlo, abbiamo adesso collegato a telefono esattamente il presidente della Regione Calabria, che ha la delega alla sanità, perché abbiamo sentito che oltre al programma di rientro 4 è una delle regioni che si aggiunge alle 4 commissariate, Giuseppe Scopelliti, che naturalmente si è trovato appena eletto con questa situazione e con dati come quelli appena ricordati dal professor Antonini. E quindi io chiedo a Scopelliti come responsabilmente si può tentare, col progresso sulle spalle di questa gravità, dovendo affidare a KPMG, quindi a un'agenzia esterna, il rendiconto davvero di cosa c'è nei conti quando uno è appena eletto e non è in condizione di poter sapere che cosa c'è davvero nei propri conti, e contemporaneamente quando poi c'è una parte d'Italia che dice adesso i tempi sono strettissimi, tra commissione tecnica, SOS eccetera, in pochi mesi qua bisogna fare stato di tutto ciò che è convergenza verso costi analoghi e costi che vadano verso i più virtuosi, quando si trova invece nella condizione di maggior deficit. Come si fa in questi casi, Scopelliti? Ma si fa, intanto buongiorno, si fa organizzando veramente, mettendo in piedi un progetto che ci consente di pianificare nel tempo l'idea di realizzare una buona sanità. Io sono convinto che il piano di rientro, così come è stato presentato con una serie di modifiche, rappresenti comunque una strada da intraprendere, che noi abbiamo già intrapreso abbondantemente. Infatti in Calabria abbiamo detto molto chiaramente che invece di riconvertire alcuni ospedali, noi andremo a chiudere alcuni ospedali in Calabria. E questo è un segnale anche sul piano non soltanto delle scelte del campo della sanità, ma anche sul livello culturale. Cioè, ciò che non era possibile un tempo in Calabria oggi diventa possibile. Questo significa che anche i grandi cambiamenti si possono realizzare. E Palmi, Italianova sono un esempio lampante anche di quanto noi stiamo oggi realizzando in termini di, diciamo così, programmi. Aspetti Presidente, adesso ho l'obbligatorietà del minuto sull'informazione e circolazione stradale, poi riprende esattamente da dove ha interrotto. Ho interrotto il presidente della regione Calabria Scopelliti, che diceva intanto alcuni ospedali, Palmi, Taranova eccetera eccetera, qui per la prima volta nella storia della nostra regione, invece che promettere semplicemente la riconversione, si chiudono. Poi? E dopo mettiamo in campo sicuramente un'idea di buona sanità. Questa è la nostra idea. La razionalizzazione delle strutture ospedaliere significa anche ridurre i ricoveri inappropriati, potenziare la rete territoriale, che diventa un primo grande approccio col territorio e quindi aiuta sicuramente a dare una risposta immediata. E il problema anche di fondo che oggi abbiamo, lei ricordava KPMG, dopo aver avuto dei finanziamenti corposi da parte della regione, ancora oggi non ci ha aiutato a risolvere il problema, e questo è un fatto gravissimo che io ho denunciato. Si partiva da un disavanzo di 2 miliardi e 166 milioni annunciato dal presidente, dall'ex presidente Loiero, a un dato invece che per noi è molto più veritiero, intorno agli 875 milioni di euro. Mi pare di capire che c'è una differenza enorme rispetto a questi due dati. Il dato da cui, secondo me, a cui bisogna fare riferimento è che in effetti nella sanità calabrese c'è stato uno sperpero enorme di risorse pubbliche. Si è guardato più a favorire le lobby, gli interessi di parte particolari rispetto al cittadino utente. Ecco, noi dobbiamo ripartire da questo tipo di percorso. C'è oggi un gruppo di manager che non hanno mai avuto a che fare con la sanità calabrese, che sono stati da me nominati come commissari in questa prima fase, perché comunque qui il sistema era un sistema perverso. Cioè, la sanità veniva utilizzata per logiche e per interessi anche politici. Io credo che invece una buona sanità possa dare dei riscontri politici in termini di consenso, perché finalmente la gente si riconosce nella sanità del proprio territorio. Noi spendiamo 238 milioni di euro in solo anno per l'emigrazione sanitaria. Tutto questo basterebbe per ridurre, diciamo così, i costi di quello che sono le perdite annuali all'interno della nostra regione. Governatore, ma se lei dovesse pensare al di là del rientro del deficit, ma se dovesse immaginare rispetto alle caratteristiche degli assistiti in Calabria, perché poi conta anche qual è la percentuale di anziani già oggi rispetto al totale della popolazione, cioè, è ovvio che non è che l'Italia è tutta uguale, questo lo dico a chi sta a casa, perché poi tendiamo sempre a raffrontare costi e fabbisogni dimenticando che poi ci sono caratteristiche diverse. Allora, ma se in base a questo, per le caratteristiche degli assistiti nella sua regione, lei preferirebbe in realtà che il lavoro della commissione del professor Antonini e poi il lavoro politico di scelta decisiva del criterio su cui andare a definire i costi standard sia quello per tipologie di offerta di servizio e costi relativi praticati in alcune regioni più virtuose, o sia quello invece di tenere presente anche quei dati, ma di fare un ragionamento invece su quanto costa per assistito la spesa, facendo contare un po' meno la qualità e virtuosità dei servizi offerti dai più virtuosi. Perché il ragionamento che lei ha appena fatto dice: sì, se voi mi fate semplicemente i costi dei più virtuosi, tenete meno conto del fatto che poi c'è una parte d'Italia che appunto vede la gente che fa le migrazioni sanitarie, va a curarsi in Veneto, in Lombardia, in Piemonte e così via. Se lei dovesse dire per il Sud, qual è la scelta più utile e meno penalizzante per i costi standard sanitari da fare? Ma io credo che il percorso debba essere un percorso graduale, darci qualche anno di tempo per metterci in carreggiata rispetto anche all'idea di confronto con le regioni anche più virtuose. Io non ho paura, sembrerà strano, di questa competizione, perché so molto bene oggi che ho chiara la visione del problema della sanità del mio territorio, dove posso e come posso aggredire queste emergenze e come posso risolverle, perché se si mette in campo una sinergia con istituti, come stiamo già tentando di fare, prestigiosi del nostro paese, laddove i calabresi vanno a ricoverarsi prevalentemente perché abbiamo questi dati, sappiamo quali sono anche le malattie e gli istituti in cui vanno a curarsi, e si mette in campo una sintonia e un gioco di squadra in cui professori illuminati vengono qui a dare un supporto a questo tipo di azione, noi siamo nelle condizioni di ridurre drasticamente il nostro problema dell'emigrazione, ad offrire una sanità buona e di qualità e mettere in campo tutta una serie di altre alternative che diventano, ci rendono competitivi. Io credo che sia stato anche mal comunicata la sanità. Qui c'è un problema che molta gente va via anche per una semplice sciocchezza per farsi visitare, perché le tante difficoltà che sono nate anche rispetto alle morti negli ultimi anni di mala sanità, poi c'è una percentuale nazionale rispetto a questo, quindi qua magari c'è una percentuale più accentuata perché proprio le stesse strutture dove vengono ricoverate le persone non sono adeguate, non hanno i reparti idonei a fare determinati interventi, tutto questo grava notevolmente a causa di morte, però indipendentemente da questo io credo che ci siano le condizioni per poter offrire un modello di sanità che sia alla fine, io dico, tra 5 anni virtuoso. Antonini, di fronte a appunto i governatori del Sud che chiedono più tempo, lo chiedono, ma è educata come ha fatto Scopelliti, ma il messaggio era chiaro, come da incarico di Presidente di Commissione, lei che dice? No, assolutamente sì, da un lato dico anche la relazione che ha presentato il Ministro Tremonti parla proprio di solidarietà e di necessità di gradualità, quella che è stata presentata al Parlamento, e questo è fondamentale. Com'è fondamentale anche incontrare una volontà politica come quella che ho appena sentito dal Presidente Scopelliti, che rappresenta la certificazione che il percorso di cambiamento è possibile, perché occorre questo tipo di volontà politica e questo tipo di azione che va poi a vantaggio dei cittadini e delle situazioni che appunto si trovano a dover affrontare. Però io credo che dalle parole molto molto interessanti, significative, puntuali, appropriate del Presidente Scopelliti sia arrivata la conferma oggi a noi che questo cambiamento è possibile. Io ringrazio il Presidente, il Professor Antonini, e il Presidente Scopelliti, oltre a Renato Botti, che ci ha illustrato come anche nella regione in cui c'è più privato e anche di miglior qualità, però ci si scambia i dati con il pubblico con l'idea di gravare meno. Do una risposta agli ascoltatori, perché molti mi chiedono: ah, ma che cos'è questo? È un concerto del centrodestra? Ma guardate, io sono a volte allibito, lo dico con rispetto, tante volte lo spiego, non ho l'impostazione che su ogni questione c'è la destra e la sinistra paritaria, perché altrimenti a casa pensate che è pubblicità per chi? Il professor Antonini è alla testa di una commissione tecnica per il federalismo fiscale che ha il compito di studiare numeri e convergenza. Cosa devo fare? Devo sentire uno di sinistra? Il professor Antonini è lì per un incarico istituzionale, non è mica una figura politica, e quindi che cosa, perché mi dite perché il più dei messaggi di oggi dice che è una specie di vergognosa cosa a favore del centrodestra. Dopodiché i presidenti delle regioni che hanno vinto e che si trovano a dover gestire questo problema, tranne che la Puglia di Nicky Vendola, mi impegnerò a far parlare Nicky Vendola appena possibile, anche perché Nicky Vendola sta facendo comunque, si è anche candidato per una novità del centrosinistra, però dei problemi si parla con chi ha responsabilità pro tempore. Lo dico perché a casa spero che non ci sia alcun equivoco sul fatto che, poiché bisogna attuare la delega sul federalismo fiscale, adesso bisognerà far parlare, chiedergli ce la fate, non ce la fate, ci spiegate come, a chi ha la responsabilità adesso. E mi sembra che sia elementare. Comunque, grazie regia Pietro Lacorte, grazie Antonella Migliaccio in redazione. Appuntamento a domani, linea al giornale radio.